Pisa 24, i gialli della storia. A guerra finita, Eleanor Roosevelt, vedova del presidente americano, viene a conoscenza del modo in cui gli azionisti americani hanno realizzato grossi guadagni in Europa. Negli stabilimenti Ford in Germania e in Francia, tutti erano al servizio dei nazisti. Indignata, scrive sul New York Times. Certi intrecci economici sono gravemente lesivi del nostro patriottismo e del nostro senso etico. Durante tutti gli anni 30 e anche a guerra già iniziata, alcuni grandi marchi statunitensi continueranno ad avere rapporti commerciali molto intensi con la Germania di Hitler, nonostante i divieti e l'embargo. Sarà anche grazie a quegli accordi finanziari che Hitler potrà scatenare la sua guerra di conquista. Oggi a Mix 24 racconteremo alcuni di questi patti segreti e le loro conseguenze. Per assecondare le volontà espansionistiche della Germania nazista è necessario gestire una grande quantità di petrolio. E allora Hitler firma un accordo con la Standard Oil, che successivamente prenderà il nome di Esso. Negli anni 30 la Standard Oil è il più grande gigante petrolifero americano. Il potente gruppo, che diventerà la Esso, porta avanti la sua politica economica in tutto il mondo senza distinguere fra regimi democratici e dittature. Obiettivo: creare un monopolio. Standard Oil fa parte dell'impero Rockefeller, la sua sede centrale è a New York. Il top manager della Standard Oil, Walter Teagle, è criticato per i suoi metodi autoritari. Teagle si scontra con un altro colosso, la IG Farben. Anch'esso vuole conquistare il mondo. A dirigere il gruppo chimico tedesco c'è un altro uomo assetato di potere, Hermann Schmitz, un pericoloso concorrente per la Standard Oil. IG Farben ha messo a punto un procedimento per creare la benzina sintetica. In caso di carenza di petrolio, il titolare del brevetto sarebbe diventato padrone del mercato mondiale. Ma nel 1938 la Germania è ancora costretta a importare l'80% del proprio fabbisogno di greggio. Hitler vuole la guerra, ma per motivi strategici ha bisogno della benzina sintetica, a qualunque costo. In caso di conflitto si sarebbe visto chiudere gli approvvigionamenti petroliferi. Era stata progettata la costruzione di un oleodotto, poi la creazione di una flotta di petroliere, ma tutte queste idee erano state bloccate sul nascere da Hitler, che invece aveva un piano molto chiaro. La Germania doveva vincere unicamente con l'autarchia. Sapevamo di non avere carburante e abbiamo costruito le fabbriche che dovevano fornirci il carburante. Sapevamo che non avremmo potuto procurarci il caucciù e abbiamo costruito le fabbriche di caucciù. Gli americani pensavano di avere il monopolio, ma la scienza tedesca ha spezzato questi monopoli e oggi siamo in possesso di tutti i mezzi necessari per sconfiggere il nemico. Ma il potente comandante della Luftwaffe ha sottovalutato un elemento fondamentale: il piombo tetraetile, un additivo per benzina. Senza questo ingrediente, i motori supercompressi degli aerei di Hermann Göring non possono decollare. E Hitler ha bisogno di una Luftwaffe pronta ed efficiente per i suoi piani di conquista ad est. Göring invita i dirigenti della IG Farben a mettersi in contatto con gli amici americani. Standard Oil, infatti, è la prima produttrice al mondo di piombo tetraetile. I tedeschi hanno bisogno del know-how di Standard Oil per la costosa produzione del nuovo carburante sintetico. In breve, l'accordo con IG Farben è fatto. Walter Clark Teagle e Hermann Schmitz hanno da tempo ultimato la costruzione in Germania di due impianti per la produzione di piombo tetraetile. Ma nel luglio del 38 la produzione è ancora insufficiente. Un approvvigionamento rapido e diretto metterebbe al sicuro da pericolosi imprevisti. La filiale della Standard Oil a Londra consegna immediatamente ai nazisti l'antidetonante per un valore di 20 milioni di dollari, e questo quando il rischio di un conflitto con la Germania è ormai molto forte. Ora Hitler può procedere all'annessione dei Sudeti e preparare l'attacco alla Cecoslovacchia. Poco prima dell'invasione della Polonia, gli inglesi effettuano un'altra consegna di piombo tetraetile per 15 milioni di dollari. Durante la battaglia d'Inghilterra, i primi raid aerei nazisti su Londra saranno resi possibili proprio dall'utilizzo di questo composto chimico. Per la sua guerra, Hitler ha estrema necessità di petrolio e in Germania la produzione del combustibile sintetico copre appena la metà del fabbisogno. Ancora una volta è necessario ricorrere all'aiuto degli amici industriali negli Stati Uniti. Standard Oil possiede quasi la metà dei diritti sui giacimenti petroliferi rumeni di Plösti, la fonte di greggio più importante per la Germania. Nell'archivio militare di Friburgo sono raccolte lettere e documenti che testimoniano che i nazisti avevano urgente bisogno di Breitstock, l'olio pesante. Solo gli Stati Uniti erano in grado di rifornirli di questo materiale. La fornitura era determinante per la guerra di Hitler e doveva avvenire mentre era in corso il conflitto. E a quanto mi risulta, durante la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti dettero alla Germania Breitstock in quantità sufficiente. 7 dicembre 41. Con un attacco a sorpresa alla base militare di Pearl Harbor, il Giappone porta la guerra nel Pacifico e interrompe i collegamenti fra Stati Uniti e la Malesia, il principale fornitore di caucciù dell'esercito americano. Le due società, IG Farben e Standard Oil, si erano accordate per mantenere relazioni di affari anche nel caso di un coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto. I dirigenti di Standard Oil e IG Farben stipulano un patto segreto. La IG Farben vuole impedire la confisca dei suoi brevetti nei paesi nemici e per questo intende metterli nelle mani fidate del gruppo statunitense. I chimici hanno già realizzato la Buna, una gomma sintetica ottenuta da carbone e calce. Oltre che a Hitler, questi brevetti fanno gola anche alla Standard Oil, che fiuta la possibilità di assicurarsi un mercato redditizio perlomeno negli Stati Uniti. Nel contratto di cessione del brevetto della Buna, la gomma sintetica, Standard Oil, su disposizione del Ministero dell'Economia del Reich, si impegna ad utilizzare il brevetto solo previa autorizzazione tedesca. Malgrado la crisi della gomma, Standard Oil tiene fede all'accordo stipulato con i tedeschi. Il procedimento per la produzione della Buna non deve finire nelle mani di industrie concorrenti come la Goodyear. Il potente senatore Bernard Baruch, incaricato di un'indagine dal presidente Roosevelt, si rivolge alla nazione. Siamo del parere che l'attuale crisi possa aggravarsi a tal punto che, in assenza di provvedimenti immediati, il paese rischia il tracollo militare e sociale. Dopo Pearl Harbor, la Standard Oil e le sue affiliate continuano a fornire benzina ai nazisti. Ma gestire il petrolio non è sufficiente, bisogna progettare e costruire i mezzi meccanici per invadere i paesi confinanti e muoversi sui campi di battaglia. Da questa pressante esigenza nasce un altro importante accordo commerciale che vede protagonista la tedesca Opel e l'americana General Motors. All'inizio degli anni 30 la Opel, affiliata del gruppo americano General Motors, intraprende la costruzione di automezzi militari pesanti. Brandenburg, primavera del 35. Con la collaborazione della Wehrmacht vengono attrezzate nuove officine per mezzi pesanti. I manager della Opel, nel cui consiglio d'amministrazione siedono anche gli americani, fiutano subito il colossale affare rappresentato dalle commesse delle forze armate. Realizzato secondo i nuovi sistemi di produzione americani, l'impianto è il più moderno d'Europa e sforna ogni giorno 120 autocarri. L'Opel Blitz era in pratica la spina dorsale della Wehrmacht, costruita dalla Opel con l'aiuto, si può dire chiaramente, di denaro americano. Il Führer e l'Opel Blitz aumentano il loro potere negli stessi anni. Hitler e i suoi soldati hanno grandiosi progetti di espansione. Senza l'Opel Blitz, Hitler non sarebbe riuscito ad entrare trionfalmente a Vienna. Durante le manovre per l'annessione dell'Austria, numerosi mezzi pesanti di altre marche restano in panne. Nel giro di una notte, nella confinante Baviera, vengono requisiti centinaia di Opel Blitz, grazie ai quali la Wehrmacht può fare il suo ingresso nella capitale austriaca. Hitler dimostra subito la sua riconoscenza, visita personalmente lo stabilimento di Brandenburg e ordina altri 2000 Opel Blitz. Dagli esordi del nazismo fino allo scoppio della guerra, nella General Motors fondamentale è il ruolo di un brillante manager americano. Il suo nome è James D. Mooney, vicepresidente della compagnia in Germania. Per i meriti acquisiti nella trasformazione della Opel in una delle maggiori aziende del settore militare, riceve da Hitler l'Ordine dell'Aquila, la massima onorificenza conferita dal partito ad uno straniero. Ogni volta che viene impiegato, l'Opel Blitz supera brillantemente le prove più ardue. L'avanzata ad Oriente, l'annessione dei Sudeti e l'aggressione alla Cecoslovacchia. Poi seguiranno i successi della Guerra Lampo ad Ovest. Nel 1940, in poche settimane, Olanda, Belgio e Francia vengono travolte. Dopo qualche giorno, dall'inizio della guerra, fu stipulato un accordo di stretta collaborazione tra la Luftwaffe e l'impianto di Rüsselsheim. L'intesa fu possibile grazie al ruolo fondamentale svolto dal vicepresidente James Mooney. Mooney da tempo intratteneva rapporti epistolari con i vertici del partito nazista e in quell'autunno del 1939 risiedeva addirittura a Berlino. Di lì raggiunse lo stabilimento di Rüsselsheim, dove incontrò anche Hermann Göring. Mooney si rivolge al presidente americano Roosevelt, il quale si dichiara disponibile a fare da mediatore. Roosevelt in persona augura un buon successo alla missione di Mooney. Al contempo, la General Motors partecipa al riarmo americano con molto zelo. L'organizzazione è affidata a James Mooney, che come alto ufficiale della riserva si considera un vero patriota. Il suo superiore, Alfred Sloan, dichiara: un'impresa multinazionale, presente in tutto il mondo, è tenuta a gestire le proprie attività in base a rigidi criteri economici, incurante delle idee politiche del paese in cui opera. Non siamo un ente assistenziale, noi realizziamo profitti per i nostri azionisti. I rapporti con l'industria meccanica hanno un altro protagonista che ha più volte manifestato la sua simpatia per Hitler e ha pubblicato un libro dai contenuti fortemente antisemiti. Il suo nome è Henry Ford. Nel 1921 era stata pubblicata l'edizione tedesca del libro di Henry Ford, L'ebreo internazionale. Fin dall'inizio, tra il leggendario costruttore di automobili Henry Ford e Adolf Hitler, c'è un elemento di forte comunanza spirituale, l'antisemitismo. Il libro di Ford rafforza in Hitler l'odio anti-ebraico e gli offre elementi di riflessione per il suo Mein Kampf. In Hitler and in the European fascist... I vertici della finanza americana vedevano in Hitler e nelle dittature fasciste europee una possibile soluzione ai problemi che incontravano con i movimenti dei lavoratori e con i sindacati. Agli occhi di Henry Ford, i sindacati erano opera del diavolo. Henry Ford's view were the work of the devil. L'azione brutale di Hitler contro i sindacati piace a Ford, che presidia le sue fabbriche con milizie armate. Prima che Hitler vada al potere, Ford lo sostiene con ingenti finanziamenti. Un'immagine del benefattore americano è appesa nella sede del partito nazista a Monaco. As far as Henry Ford is concerned, per Hitler, in quegli anni, Henry Ford non era solo un modello, era molto di più. Henry Ford era una specie di dio della produzione di massa, o forse sarebbe meglio dire il suo papa. Ogni giorno migliaia di persone gli scrivevano: lei è un grande eroe, lei ha introdotto il sistema produttivo che ha fatto tanto grande l'America. Il fordismo divenne l'ideologia degli industriali tedeschi. Ogni cosa doveva essere fatta esattamente come l'aveva realizzata Ford. In un documento riservato diretto a Edsel Ford, Colonia comunica che in Germania è in atto una battaglia economica in cui le commesse statali assumono sempre maggiore importanza. Per gli americani non ci sono problemi. L'otto cilindri viene venduto come motore per un fuoristrada militare. La conversione dello stabilimento Ford di Colonia è immediata. A Detroit, Henry Ford si adatta ad una nuova concessione. Gli altri produttori d'auto stranieri non ricevono più caucciù per pneumatici, né valuta per importarlo. Sono obbligati a procurarsi la gomma attraverso scambi in natura e a destinarne il 25% alla produzione bellica. Il dittatore tedesco si mostra riconoscente verso il potente industriale americano. Finalmente i veicoli Ford di Colonia possono fregiarsi del marchio prodotto tedesco. Negli stessi giorni in cui il mondo intero guarda con apprensione al tentativo dei nazisti di ricattare la Cecoslovacchia per invadere i Sudeti, proprio in quel momento la Wehrmacht si presenta alla Ford e dice: ci servono 1,000 camion, subito. Ora io domando, sembra plausibile che la Ford non sappia a cosa servono questi 1,000 camion? Per la Ford la commessa non è un segreto. I nazisti hanno pagato in dollari una parte della fornitura. Ma la casa automobilistica ammetterà questo episodio solo dopo alcuni decenni. Hitler ha già conferito a Ford un'onorificenza all'Ordine dell'Aquila per la collaborazione offerta alla Germania. Ford si fa puntare il distintivo sulla giacca dal viceconsole tedesco a Detroit. Sono gli ultimi mesi del 1938. ma anche Ford si mostra riconoscente per i buoni affari conclusi. Il 20 aprile del 39, in occasione del 50° compleanno di Hitler, la sua azienda versa 35.000 Reichsmark sul conto personale del Führer. Nei primi anni di guerra aumenta in modo massiccio la produzione di mezzi pesanti. Non risulta che Ford abbia mai protestato. Ma quando viene a sapere che lo stabilimento di Dearborn deve costruire 6.000 motori per la Royal Air Force britannica, Henry Ford si oppone. Scrive al Daily Mail di Londra che può accettare solo commesse per la difesa degli Stati Uniti. Nello stabilimento di Colonia, la Ford può ormai garantire i rifornimenti alla Wehrmacht solo con il lavoro forzato. I prigionieri vengono alloggiati in un apposito campo di baracche adiacente allo stabilimento. Negli ultimi anni del conflitto, Ford affitta anche migliaia di detenuti dei lager. Per ogni detenuto paga alle SS 4 marchi al giorno. Le condizioni di vita e di lavoro sono disumane. In fabbrica c'era la polizia. C'era anche un nazista che aveva un distintivo, una croce uncinata. Era malvagio, disgustoso. Odiava soprattutto noi russi, russi maiali, ci diceva sempre così. Una volta sono stata picchiata perché sono arrivata al turno di notte con 2 minuti di ritardo. Un'altra volta, questo nazista ha gettato a terra una mia amica che stava lavorando e l'ha fatta svenire. In fondo cos'è una botta sulla testa? Noi non eravamo esseri umani. Dal dicembre del 1941 gli Stati Uniti sono entrati in guerra. Ora Henry Ford è un fervente patriota. I suoi stabilimenti producono aerei, mezzi pesanti, carri armati e navi per la vittoria dell'America. In 6 anni di guerra la Ford di Colonia ha prodotto per la Wehrmacht 78.000 mezzi pesanti e 14.000 veicoli con trasmissione a catena. Nel 1942 la città di Colonia viene bombardata dai caccia alleati che la distruggono quasi completamente. Lo stabilimento Ford viene risparmiato. È bombardato 2 anni dopo, nel 1944, ma subisce solo lievi danni. Tra noi dicevamo, è tutta una barzelletta. Sì, è tutta una barzelletta. Qui si producono gli autocarri con cui vengono colpiti gli americani. Proprio così. Eppure, non ci bombardano mai. Del resto, si capisce, gli americani non sono mica tanto scemi da distruggere le loro stesse fabbriche. Nel 1965 la Ford chiede ad una commissione del governo americano circa 7 milioni di dollari di risarcimento per i danni di guerra. La commissione riduce questa somma a 500.000 di dollari. Motivo: i discutibili metodi contabili adottati dall'azienda. Ma per costruire la grande Germania è necessario anche modernizzare l'apparato statale, catalogare, programmare, progettare in tempo reale. L'elettronica, una scienza agli esordi, diventa fondamentale. Il colosso americano IBM diventa ben presto un nuovo partner commerciale di Adolf Hitler. L'ascesa al potere di Hitler coincide con un vero e proprio boom della filiale tedesca della IBM. I calcolatori erano usati in quasi tutte le grandi industrie, ma ora fra i grandi committenti figura anche il governo. Nel 1935 la Dehomag costruisce un nuovo grande stabilimento alla periferia di Berlino. Anche gli antenati degli odierni computer erano costruiti dall'IBM. A produrli in Germania era l'affiliata Deutsche Nollerithmaschinen AG, la Dehomag. Mediante schede perforate, queste macchine elaboravano rapidamente dati per statistiche, registrazioni e calcoli, di cui producevano degli stampati. Dopo la campagna di riarmo voluta da Hitler, ottenemmo tantissime ordinazioni e nuovi clienti. Economicamente la situazione era molto florida. Quasi subito misero anche una targa alla parete che diceva «Fabbrica modello del fronte tedesco del lavoro». Volevamo dimostrare di poter dare un grosso contributo alla costruzione dello Stato hitleriano. Il motivo di certe ruffianate era solo questo. Anche il presidente della IBM America, Thomas Watson, è impressionato dai successi della Dehomag e si reca spesso in Germania. Nell'estate del 1937 la Camera di Commercio Internazionale organizza a Berlino il suo congresso mondiale. Watson si fa eleggere presidente. Un articolo del New York Times illustra la cerimonia alla Kroll Oper. Watson è fra gli stranieri che all'ingresso del Führer sollevano il braccio destro in segno di saluto, ma interrompe subito il gesto. Il giorno dopo viene ricevuto dal Führer. Watson è stimato come un affidabile ammiratore di Adolf Hitler. Lo ha sostenuto anche prima che conquistasse il potere. Watson continua a stimare la Germania e il suo Führer anche quando, il 9 novembre 1938, nella notte dei cristalli, i nazisti si avventano con brutale violenza contro gli ebrei. La stampa americana sembra non avere alcun dubbio sul mostruoso progetto dei nazisti, annientare gli ebrei, ma Watson non desiste. Anzi, la Deomag, che ha eseguito con zelo il complesso incarico assegnatole dal governo, diventa un utilissimo strumento del progetto di sterminio. I suoi calcolatori, infatti, gestiscono il grande censimento del 39, col quale gli esperti delle SS intendono scoprire quanti ebrei vivono in Germania, nei Sudeti e in Austria. Il petrolio, la meccanica, l'elettronica sono i casi più eclatanti della collaborazione tra l'industria americana e la Germania di Hitler, ma non sono gli unici. Quando tutti questi accordi commerciali vengono scoperti, Eleanor Roosevelt, la battagliera moglie del presidente, appoggia un vasto movimento d'opinione che condanna le grandi società che hanno preferito lucrosi guadagni alla rettitudine morale e alla fedeltà al proprio paese. Così il professor Matthew Ford, docente di scienze politiche e relazioni internazionali alla LUMSA di Roma. Forse si può dire che questi eventi hanno condizionato la politica estera degli Stati Uniti d'America nei decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le rivelazioni, a volte molto imbarazzanti, riguardanti le presenze economiche americane in Europa occupate nella Germania, probabilmente hanno reso gli americani molto più sensibili l'idea non soltanto di controllare, monitorare il commercio estero, ma anche di utilizzare un controllo sul commercio estero, gli embarghi, come arma diplomatica. Quindi forse si può dire che c'è stato un netto cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti d'America a causa di questi sviluppi che hanno provocato anche molto turbamento della coscienza americana. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it. We'll be right back.